pronti per il salmo di questa sera? Ah, 20 di voi lo sono, benissimo. Predicherò soprattutto per 20 che hanno risposto, per i 20 che hanno risposto, no? La parola è bellissima ed è preziosa e cambia le nostre vite, per questo noi ogni domenica ci approcciamo ad essa e apriamo i nostri cuori. E devo dirvi che a me rendono la vita facile ed è fatto tutto apposta, eh. È stato tutto studiato per questo momento e per questa sera. E cioè il fatto che, per esempio, ogni qualvolta qualcuno predica prima di me, cita il verso, quello che abbiamo sentito domenica scorsa, di Efesini, no? Non siate ripieni di... Era solo domenica scorsa. Non siate ripieni di... Ma siate ripieni dello... Parlandovi... Con i salmi, eh? Vedi che mi appianano la strada, è fantastico. Poi oggi, proprio ad hoc, hanno introdotto un nuovo canto, no? Su che salmo era? Sul Salmo 93. Indovinate il salmo che predicheremo questa sera? Salmo 93, è tutto fatto apposta ed è una cosa gloriosa per scavare e vedere, vivere questo salmo meraviglioso. Il più bello, lo so, lo dico di ogni salmo, però questo per questa sera sarà il più bello. Ritornando a quello che ci è stato detto domenica scorsa dal pastore, così importante è riscoprire che siamo chiamati o dobbiamo essere affamati di essere ripieni di spirito. Ma la mia domanda naturale, dopo aver letto quel versetto, dopo aver ascoltato il pastore, soprattutto perché si parlava dei salmi, era: ma parlandoci con i salmi, perché il versetto dice, no? Non siate ricolmi, non siate pieni, non siate ubriachi di vino, ma siate ricolmi di spirito, poi dice, parlandovi con i salmi. Allora la mia domanda è: ma io sono ricolmo di spirito parlandomi con i salmi? O è diverso? Secondo me è diverso, sapete perché? Perché ogni qualvolta la parola di Dio parla di essere ripieni di tutta la sua pienezza, di essere ripieni del suo spirito, di essere ripieni di chi Dio è, usa verbi al passivo. Che cosa significa questo? È che noi non possiamo fare nulla. Non importa a noi quanto preghiamo, non importa a noi quanto ci affatichiamo, non importa quanto noi ricerchiamo, è Lui che decide quello che fare, come fare, quando lo fate. Sapete perché? Perché lo Spirito di Dio non è come qualcosa di, non lo so, magari a volte si pensa, no? Un po' magico, un po' mistico, un po', che sta in una caraffa, che noi possiamo prendere e versare in noi. Non funziona così, è Dio stesso. La parola di Dio dice, lo Spirito di Dio è come il vento e soffia dove vuole. È Lui che decide dove, quando e perché. Non solo, c'è scritto che è Lui che stabilisce questo. Ed è una cosa molto preziosa per noi comprendere questo. Dobbiamo comprendere questo perché. Perché a cosa serve? A cosa serve parlarci allora con i salmi? A cosa serve svuotarci di tutte le cose, come abbiamo visto la scorsa settimana, che ci distolgono, che ci distraggono? A cosa serve? Sapete cosa serve, secondo me? A togliere tutto quello che previene o non permette a noi di essere riempiti del suo spirito. E quindi noi togliamo il vino. Togliamo tutte le distrazioni, ci parliamo i salmi per ripulire quel vaso che noi siamo, quel bicchiere che noi siamo, per fare una cosa, per alzare le nostre mani e dire: Signore, riempimi di tutta la tua pienezza, Signore, riempimi di tutta la tua potenza, Signore, vieni, riempimi di chi tu sei. E Lui lo farà quando e come e perché vuole. Però noi sappiamo che la parola dice un'altra cosa, che Lui è un padre buono. E che cosa fa? Non rifiuta a chi chiede lo Spirito. Per questo noi ci ripuliamo, per questo noi laviamo noi stessi dalle nostre idee, dai nostri peccati, dalle nostre fedi sbagliate. E le riempiamo con chi Lui è, le riempiamo con le sue verità, le riempiamo con la sua parola. per essere vivi, per essere ripieni poi del suo spirito, per prepararci a questo. Per questo ci dobbiamo parlare i salmi. Siete d'accordo? Per questo dobbiamo parlarci, per questo parlami i salmi, parliamoci i salmi. Stasera permettetemi di parlarvi questo salmo, mi permettete di parlare questo salmo. Il salmo, parliamocelo questo salmo meraviglioso. Facciamo una cosa, ci alziamo in piedi e leggiamolo questo salmo. È la mia preghiera che possa entrare nei nostri cuori, che possa ripulire quel vaso, questa verità, possa portare un terremoto nei nostri cuori e scuoterli, affinché possano essere pronti per quello che Lui ha per noi. Quando questa mattina pregavo, sentivo questa parola, sentivo di pregare questo, e sentivo di pregare, Signore, vieni e lotta con noi. Combatti con noi, combatti con i nostri cuori, combatti con le nostre idee, combatti contro le nostre ignoranze, combatti contro le nostre indipendenze, combattile e vinci, affinché, Signore, le tue verità, la tua fede in noi, Signore, possa crescere, affinché tutta la tua verità possa crescere e noi possiamo credere chi tu sei e arrenderci a te e vivere te. Leggiamo il Salmo insieme, preghiamolo insieme mentre lo leggiamo. Salmo 93. Il Signore regna, Egli si è rivestito di maestà. Il Signore si è rivestito, si è cinto di forza. Sì, il mondo è stabile, non sarà mai smosso. Il tuo trono è saldo da sempre, tu sei da sempre. I fiumi hanno alzato, Signore, i fiumi hanno alzato la loro voce, i fiumi elevano il loro fragore. Ma l'Eterno nei luoghi altissimi è più potente delle voci delle grandi acque, più potente dei flutti del mare. I tuoi statuti sono perfettamente stabili, la santità si addice alla tua casa, o Eterno, per sempre. Amen. Vi potete accomodare. Il Salmo non poteva iniziare in modo migliore. È vero. Il Salmo inizia col dire Dio regna. Non c'è scritto Dio regnerà se pregate abbastanza. Non c'è scritto regnerà se lo riconoscete abbastanza come sovrano. No. Ci vorrebbe un punto esclamativo qui per affermare quello che il Salmo afferma. Dio regna. Punto. Dio regna nella tua vita, Dio regna nella mia vita. Se lo preghiamo o lo riconosciamo, Lui regna. Lui è Dio sovrano. Questo è il tuo Dio, questo è il mio Dio. E il salmista introduce questo tema fin dall'inizio, che Dio è re, che Dio è un re come nessun altro e Lui regna. Lui regna. Oh! Sveglia, vi sto parlando questo salmo, Dio regna, non possiamo rimanere indifferenti, non possiamo rimanere uguali, Dio regna, fratello, Dio regna, sorella, Dio regna, amico, Dio regna, amica, Dio regna. Oh, che questo possa accendere i nostri cuori. Che il Signore stesso possa accendere i nostri cuori e farci vedere che Lui regna e regna sempre. Amen? Il salmista proseguirà adesso con un paio di versetti per farci vedere che tipo di re è il nostro Signore, che tipo di regno Lui governa e quanto dura il suo regno. Vediamolo insieme, sproliamolo insieme. Inizia e dice, Egli si è rivestito di maestà. Egli si è rivestito di maestà. Questa è la natura del re. Lui si è rivestito di maestà. È vero, questo io credo che per noi è molto difficile. È abbastanza difficile capire questo concetto di re, no? Chi di noi è stato mai re di un regno sovrano? Immagino nessuno. Oh, ci siete? Chi mai è stato un re? Ah, ecco, nessuno alza la mano, benissimo. Però non siamo mai neanche stati sudditi, vero? neanche mai stati sudditi di una monarchia sovrana. Immaginate, quando il Salmo è stato scritto, i re erano qualcosa di importantissimo. C'erano solo re in quel periodo, e i re erano definite o vissute come divinità, erano adorate come divinità, spesso erano forti guerrieri e feroci guerrieri, erano dei potenti sovrani assoluti. Quello che il re diceva, quello si faceva. Se non facevi quello che il re diceva, e allora erano guai seri. Per questo noi non possiamo capirlo, ma cerchiamo di immedesimarci in questo, perché questo è il contesto nel quale è stato scritto il Salmo. E la prima cosa che dice, racconta del nostro re, è che è rivestito di maestà. Ora, i re dell'epoca si vestivano in un certo modo, no? Con stoffe bellissime, magari fili d'oro, pietre incastonate, mettevano la corona, e quanto più sgargiante era la corona, tanto meglio. Perché? Perché cosa stavano facendo tutto questo? Per dimostrare la loro maestà, per dimostrare che erano diversi dal popolo, per dimostrare che erano più importanti, per dimostrare che erano in autorità, per dimostrare che erano più alti. E basta. Il tuo re, il mio re, non ha bisogno di nessun vestito, non ha bisogno di nessuna corona, non ha bisogno di nessun artefatto. Lui prende la maestà stessa e si riveste. Sapete che cosa significa questo? È che lui è la maestà stessa, lui è la gloria stessa, lui è l'essenza della bellezza. Questo è il mio Dio e il tuo Dio. Oh! Dio regna ed è un Dio maestoso e regna in maestà. Questo è il salmo che ti sto parlando e questo è il salmo che mi devi parlare. Dio regna ed è maestoso, è bellissimo. Non solo, c'è scritto che si riveste o si cinge di forza. Non ha bisogno di mettersi una cintura con una spada per dimostrare la sua forza. No, lui prende la forza stessa e se la mette al cinto. Lui è potente. Niente è impossibile al tuo Dio, lui è rivestito di potenza. Questo è il mio re, questo è il tuo re. E la mia preghiera, fratelli e sorelle, è che queste non rimangono solo belle immagini, belle metafore, belle parole, ma che in questo momento il tuo cuore si possa accendere a queste verità e possa farti capire quanto glorioso è il tuo re, quanto magnifico è il tuo re, quanto diverso è il tuo re da tutti gli altri. Il tuo Dio regna e il tuo Dio regna glorioso e potente. Questo è il tuo re, questo è il mio re. Adoriamolo e lodiamo per quello che è. Amen. E che i nostri cuori possano essere trasformati da queste verità. Continua il Salmo e descrive quanto è esteso il suo regno. Ora anche per questi re, no? C'erano dei confini. A volte ci mettevano dei muri su questi confini, a volte ci mettevano dei castelli strategici, città fortificate per delineare questi confini e per proteggere questi confini. No, era così. Il nostro re, invece, è re sovrano su tutta la terra, su tutti i popoli. Per questo c'è scritto la terra è stabile. Perché lui e il suo regno non ha confini, non ha confini. Il tuo re, il mio re, non ha confini. È re di tutti i popoli, di tutte le nazioni. E un giorno tutti si inginocchieranno a riconoscerlo. Quanto è glorioso il mio re, quanto è glorioso il tuo re. La terra è stabile, non sarà scossa, perché il tuo Dio e il mio Dio regna. Amen. Che cosa significa questo? Che non ci sono terremoti, che non ci sono tragedie, che non ci sono cose che... No, non significa questo che il mondo è stabile e non sarà mai smosso. Ma sapete cosa significa? Significa che nulla sfugge al suo controllo. Lui ha stabilito la terra, il suo regno, e fa quello che lui vuole. La terra non è smossa dalla sua volontà e dal suo controllo. La terra non è smossa da quello che lui l'ha creata ad essere. Terremoti inclusi. Quanto è grande il mio re, quanto è grande il tuo re. È un Dio glorioso, maestoso, potente, il cui regno non ha confine E poi continua, quanto è lungo questo regno? Quanto è lungo questo regno? C'è scritto, il tuo trono è saldo da sempre, tu sei da sempre. Lui era lì quando l'ha creato questo regno, lui ha creato questo regno ed è il sovrano di questo regno, lui è da sempre e perché è da sempre, lui sarà per sempre. Che cosa è successo degli antichi faraoni, della Magna Grecia, dei Romani, dei Macedoni, dei Cartaginesi, dei Fenici, di Gengis Khan e metteteci chi altro volete mettere. Che cosa è successo? Sono venuti, hanno regnato, il loro regno si è allargato, si è poi ristretto, c'erano e oggi non ci sono più. Pensate a questo, quando loro c'erano, il nostro re già c'era. E quando loro non ci sono più, il nostro re continua a regnare. Quanto glorioso il tuo re, quanto glorioso il mio re. Io lo adoro e lo lodo perché lui è da sempre e lui sarà per sempre in controllo. Lui è il re dei re, lui è il glorioso, il magnifico, il potente. A lui sia la lode, la gloria per sempre perché è stata da sempre. Amen. Oh, ve lo sto parlando il Salmo. Riparlatelo a me perché è un salmo glorioso, perché il nostro Dio è un Dio glorioso. Amen. Amen. Ma quanto è bello questo salmo, perché prosegue, non è finito qui. Al verso 3 e 4, soprattutto il 3, vengono descritti o viene descritto il nemico di questo re, di questo regno e dei suoi sudditi. Questo re, questo regno. E questi sudditi hanno dei nemici. Abbiamo letto, no? Il fragore delle acque, i fiumi hanno fatto sentire la loro voce. Così andrebbe letto il Salmo 93. Guardate, il salmista, che cosa sta facendo qui il salmista? All'epoca non c'avevano i microfoni, le casse, gli amplificatori per fare rumori, per far sentire il fragore così magari. No. La cosa più rumorosa in natura che c'era, fra le cose più rumorose in natura che c'era, era l'acqua. Non i fiumi, le cascate, l'oceano con le sue onde che si ripetono. In altre parole il salmista sta dicendo, Signore, la cosa che ha più alta voce, che ha la voce più maestosa, che ha la voce più potente, si sta facendo sentire e si fa sentire nella mia vita. Questo è il nemico. L'acqua però non ha solo una voce, l'acqua è una fra le cose più potenti in natura, è vero. Abbiamo sentito, quando era la settimana scorsa, che cosa ha fatto la pioggia che doveva cadere in 6 mesi, caduta in un'ora, che cosa ha fatto? Ha inondato fiumi e i fiumi si sono ingrossati, sono scesi a valle, hanno distrutto tutto, case, lavori, macchine, vite, hanno portato distruzione fisica, emotiva, psicologica, tutto quello che volete. L'acqua in natura è potentemente distruttiva, non è vero? Anche la goccia che cade piano, tic, tic, tic, spacca la roccia, vero? Oppure pensate a questo, io ho immaginato proprio questo, pensate un po', a dire il vero, pregavo qua nella sala, e vedete qua ci sono le macchie lungo il muro, lungo i muri, lo so, dobbiamo sistemare, però quelle macchie ci devono parlare di questo salmo. Quelle macchie, acqua, non si vede, non si tocca, non si sente, ma quella distruzione, quella cosa brutta la porta l'acqua e neanche si vede. O pensate a questo, pensavo a questo. Se il mare Adriatico, tutto ad un tratto, così, dovrebbe decidere di salire di livello di 10 centimetri ogni ora. Ah, la prima ora, le prime 2 ore, vabbè, gli scogli si coprono, ci dispiace per gli scogli. Terza ora, passa dal muretto del lungomare, aia, inizia a inondare le strade. Terza ora, quarta ora, quinta ora, garage, macchine, primi piani, allagati, distrutti. 24, 48, 76 ore. Che cosa succederebbe? Non ci sarebbe nulla che io o tu potremmo fare. Sì, potremmo fare i muretti di quei sacchetti di sabbia, no? Ma se il mare decidesse di continuare a salire, non ci sarebbe diga abbastanza grande per trattenerlo. Vedete l'acqua quanto è distruttiva? È questo il salmista che sta dicendo. Le acque sono un potente nemico e fanno sentire la loro voce nella mia vita, Signore. Fanno sentire la loro voce, la loro influenza nella mia vita. E nella tua vita e nella mia vita ci sono le acque. E a volte sono quella fiumana o quell'onda alta 15 metri che si abbatte su di noi e ci distrugge in un secondo e noi non capiamo neanche che cosa ci è successo. O a volte l'acqua nella nostra vita è quella goccia, tic, tic, tic, che ci consuma dentro, che ci consuma dentro. Altre volte è quella fiumana che sale, noi la vediamo arrivare, ma siamo impotenti e prima ci copre le caviglie, poi le ginocchia, poi i fianchi, fino ad arrivare al collo, per farci sentire soffocare. E noi gridiamo, Signore, l'acqua fa sentire la sua voce, l'acqua fa sentire la sua voce, il regno e i suoi sudditi hanno questi nemici. Verso 4. Ma. Verso 4. Ma. Verso 4. Ma. L'Eterno nei luoghi altissimi è più potente delle voci delle acque, è più potente dei flutti del mare. Il mio Dio e il tuo Dio è più potente di queste cose. La sua voce è più forte di qualsiasi acqua, di qualsiasi situazione, di qualsiasi situazione nella tua vita. Lui è più potente. Fratelli e sorelle, vi sto parlando il Salmo. Parliamocelo questo salmo. Io ho bisogno che voi mi parlate questo salmo. Sapete perché? Perché non c'è niente nella mia vita, come le mie circostanze, come le mie difficoltà, come le mie ansie, come le mie paure, come quelle acque che salgono, che mi distraggono dal vedere chi Dio è per quello che veramente è. E io ho bisogno di te. Ho bisogno di te che vieni da me e dici, Gianluca! Gianlu! Ricordati, tuo Dio è più grande, il tuo Dio è più potente, il tuo Dio è maestoso, il tuo Dio è più forte. Ricordatelo di qualsiasi acqua, di qualsiasi situazione, di qualsiasi circostanza. È lì che io prendo vita, è lì che tu prendi vita, è lì che noi ci ignoriamo le nostre circostanze, ignoriamo le nostre acque e diciamo sì Signore tu sei più grande, sì Signore tu sei più grande, nei cieli elevato, tu sei più forte. È lì che noi svuotiamo quel vaso dai nostri nemici, da qualsiasi forma di acqua, se è la goccia o la fiumana. A prescindere, svuotiamo i nostri vasi di quello e diciamo, Signore, ma tu sei più grande, Signore, ma tu sei più potente, Signore, ma tu hai già vinto, vieni e riempimi di tutta la tua pienezza, vieni e riempimi di tutta la tua potenza, affinché io possa guardare dritto negli occhi a queste fiumane, a queste acque e possa dirgli dove devono stare, nell'Adriatico e non salire. Amen? Amen? Quanto è glorioso il nostro Dio. Parlamelo questo salmo. Quanto è glorioso questo Dio. Lui è potente. Lui è magnifico. Lui è eccelso. E l'ultimo verso ci racconta di questo re e del fatto che lui vuole unirsi a noi. Che lui vuole stare con noi. Che lui vuole unirsi e stare con noi per sempre. Da cosa lo prendiamo questo? Dobbiamo scavare un pochino di più nel verso 5, però è questo che emerge ed è bellissimo. Il verso 5 dice, i tuoi statuti sono perfettamente stabili. Vabbè, è chiaro. È un Dio maestoso, potente, da sempre. Quello che dice è giusto che sia stabile e perfetto per sempre. Perché è un re di qualità diversa, non è come tutti gli altri re che vengono, dicono la loro e poi non c'è più. Il nostro Dio è potente, è stabile da sempre, per questo quello che Lui promette, possiamo giocarci la nostra vita su quello che Lui dice. È questo quello che sta dicendo il salmista, le sue promesse, i suoi statuti, tutto quello che Lui dice è fedele ed è degno di fiducia. Quello che Lui promette, quello avviene, perché lui non è un re come tutti gli altri re, lui è un re glorioso e le sue promesse, tutte le sue leggi, dalla Genesi fino all'Apocalisse, tutto quello che lui dice, tutte le sue promesse, sono fatte per una cosa, per approcciarsi al suo popolo, per dire: io sono il tuo Dio e io ti voglio, vieni, vieni a me, perché qui c'è vita, perché qui c'è speranza, perché qui c'è la speranza che non finisce mai. Una di queste promesse qual è? È questa: se con la bocca avrai confessato che Gesù è il Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Questa promessa è degna di fiducia, perché chi la fa è un re glorioso. Se tu credi, sarai salvato. Se tu ti metti in ginocchio questa sera, se non l'hai mai fatto prima e dici: Signore, io ti riconosco per quel re che sei, ho sentito parlare di te, ma io ti riconosco questa sera come mio re, come mio sovrano, e io ti adoro per il magnifico, per il potente che sei, entra nella mia vita, trasforma, sono qui per te, la mia vita ti appartiene. Da quell'istante in poi la nostra vita si trasforma, perché da nemico del regno diventiamo sudditi del regno, diventiamo amici del re. È quello che lui dice, è degno di fiducia per sempre, per sempre. E poi c'è la seconda parte dell'ultimo versetto che proprio ci parla del fatto che a lui piace dimorare, stare, fare la sua casa nel nostro mezzo. Vedete, la santità si addice alla tua casa. Quando i salmi parlano di casa, si riferisce sempre al Tempio che c'era in Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme era il simbolo della presenza di Dio fra il suo popolo. E abbiamo visto un po' di salmi fa che quel Tempio non c'è più, perché è stato rimpiazzato da un altro Tempio, che siamo noi, la sua Chiesa, pietre viventi di quel tempio glorioso, e lui viene ad abitare in noi, la sua presenza vuole stare lì. È ciò che calza bene, ciò che è adatto, ciò che si addice alla sua casa è la santità. Beh, grazie, lui è un Dio completamente diverso, lui è un re completamente diverso, lui è un re come nessuno mai c'è stato o ci sarà. È logico che la sua casa non ci deve essere altro che se non santità, cioè cose appartate per lui e per la sua gloria, messe da parte, non contaminate da nessun'altra cosa. Questo significa santità, non contaminate da nessun'altra cosa, se non essere, per non essere ripiene di lui e della sua presenza a gloria del suo nome. Per questo si addice la santità nei suoi luoghi, per questo noi siamo chiamati da pietre viventi ad essere santi come lui è santo. E in questa casa noi possiamo entrare, e in questa casa noi dobbiamo entrare. Ricordate Ebrei 4 che cosa ci dice? Dice: avvicinatevi al trono. È un trono. Se c'è un trono, c'è un re. E su quel trono c'è il nostro glorioso re. E il re dice: avvicinatevi a questo trono, perché è un trono di grazia e misericordia, per aiuto e sostegno in tempo di difficoltà. Avvicinatevi a questo trono. Se sei qui questa sera e non ti sei mai avvicinato a quel trono, non hai mai riconosciuto Dio come re dei re, sovrano del mondo, ma anche della tua vita, non smettere questa sera, avvicinati a quel trono e riceverai misericordia, e riceverai grazia, riceverai aiuto, perché il nostro Dio è un Dio glorioso, è potente, ma è anche pieno di amore. Ed è lì che ti aspetta, con tutta la sua grazia, con tutta la sua misericordia. Avvicinati a quel trono questa sera, avvicinati a quel trono. Quel trono non sarà sempre aperto, non sarà sempre disponibile, non sarà sempre un trono di grazia, sappiamo anche questo. Oggi, dice la parola di Dio, è il giorno di salvezza. Oggi, quando noi pecchiamo, quando noi non rimaniamo santi come ciò che si addice a lui e alla sua casa, Oggi noi possiamo avvicinarci a quel trono per chiedere aiuto e dire: Signore, svuotami dalle cose che non vanno. Signore, togli le cose che non vanno. Ti prego, Signore, liberami, purificami affinché io possa essere ripieno di te. Oggi è un trono di grazia. Un giorno non lo sarà più. Ma fin quando lo è, avviciniamoci. Perché sappiamo che un giorno lui tornerà. E in quel giorno non ci sarà più il trono di grazia. Quel giorno ci sarà il giorno del trono di giustizia. E sapete cosa significa? Che lui conterà fra tutti gli esseri umani, in tutto il suo regno. Lui conterà e vedrà i suoi sudditi. E chi si sarà inginocchiato, chi avrà detto sì, io sono tuo suddito, voglio seguirti, lo abbraccerà. Lo abbraccerà e dirà: vieni, vieni, io ti amo, andiamo e stiamo insieme per l'eternità. Quella è la nostra ricompensa, fratelli e sorelle. L'abbiamo cantato prima. È Lui la nostra ricompensa, non quello che Lui ci può dare. È Lui stesso la nostra ricompensa. La Sua bellezza, la Sua maestà, la Sua gloria, la Sua forza. Noi adoreremo per l'eternità e non ci stancheremo e non ci annoieremo neanche, perché Dio è eterno e ogni giorno Lui cambierà, o meglio, Lui rimane lo stesso, ieri e oggi in eterno, ma noi scopriremo qualcosa di nuovo di Lui ogni giorno di più della Sua bellezza, ogni giorno di più della Sua gloria, ogni giorno di più della Sua maestà. Quanto è glorioso il mio Dio, quanto è glorioso il tuo Dio, quanto è bello il mio Re, quanto è bello il tuo Re. Parliamocelo, parliamocelo, ne ho bisogno. Concludo con quattro applicazioni pratiche che secondo me devono scaturire da questo salmo, che dobbiamo metterle in pratica da questo salmo. Velocemente, la prima è a riconoscerlo. Riconoscerlo. Dobbiamo riconoscerlo e confessarlo. Sì, Signore, io riconosco che tu sei il sovrano, che tu sei in controllo e sei in controllo sulle mie acque. Signore, io lo riconosco. Se non l'hai mai riconosciuto, stasera è la tua occasione per riconoscerlo e diventare suo suddito per l'eternità. E non c'è vita più piena, non c'è vita più soddisfacente, non c'è vita più meravigliosa se non quella di essere suoi sudditi. Amen. Amen. Parlatemelo questo salmo, fratelli e sorelle, perché il nostro Dio è meraviglioso. Ma anche noi dobbiamo ricordare, io me lo dimentico, posso esservi sincero, io me lo dimentico che Dio è meraviglioso, che è maestoso e che è potente. Allora me lo devo ricordare. Sapete come faccio? Ma molto praticamente, voglio sfidarvi a farlo. Scrivete un post-it, sai quei bigliettini che si attaccano, che si appiccicano, scrivete: Dio regna. E attaccatevelo alla porta, attaccatevelo al computer, attaccatevelo allo specchio dove vi guardate. Dio regna, Lui è maestoso, Lui è forte, Lui è potente sulle acque, Lui è più potente. E ricordatelo, ricordatelo praticamente. Sapete un'altra cosa che ho scoperto si può fare ed è bellissima? Ci si può mandare un messaggio a se stessi. O un'email a se stessi. Allora io faccio così, scrivo Ronchi, Dio regna, Dio è maestoso e lo mando. Poi vado a vedere, che bello, mi è arrivata un'email. La apro, Dio regna, Dio regna. Lui è maestoso, Lui è forte, Lui è potente. Ho bisogno di ricordarmelo ogni giorno. Ho bisogno che tu me lo ricordi ogni giorno, fratelli e sorelle. Abbiamo bisogno di ricordarcelo. Parliamoci questi salmi. Amen? Parliamocelo. Lodiamo. Lodiamo il nostro glorioso Dio. Lodiamolo. Abbiamo scritto questo canto non per, ma perché ci aiuta ad adorare il Re dei Re per chi Lui è, perché Lui se lo merita, perché Lui è degno. Lodiamolo. Lodiamolo non solo con la musica. Guardate bene, ho detto non solo con la musica. Io credo che la musica sia un potente mezzo e noi dobbiamo usarlo per accendere le nostre emozioni e dire: sì, Signore, io ti amo per quello che sei, sei un glorioso Re, magnifico il tuo nome. Ma dobbiamo farlo con molta più profondità anche. E allora Allora studiamocelo il Salmo 93, mangiamocelo, parliamocelo. Così quando lo canteremo sarà tanto più profondo, sarà tanto più immenso, sarà tanto più intenso. Perché questo il nostro Dio si merita. Amen. Lodiamolo. Lodalo quando sei qui, lodalo quando sei a casa. Fai il pazzo per Lui. L'altro giorno ero davanti al computer, ascoltavo una canzone, ero così che alzavo le mie mani, ho detto: se qualcuno adesso apre la porta mi prende per pazzo, ma non mi interessa. Io lodo perché Lui è degno di somma lode, perché è il Re dei Re, non c'è nessuno come Lui. Preghiamo. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di pregare quotidianamente, perché il nostro Signore Gesù ce l'ha insegnato: venga il tuo regno. Vi ricordate? Venga il tuo regno. Che cosa significa questo? Che Dio non regna? E noi abbiamo bisogno di chiedergli: vieni e regna nella mia situazione, sulle mie acque. No, non funziona così questa preghiera, perché Lui regna, Lui già regna. Abbiamo visto il primo versetto: il Signore regna, punto, esclamativo. Punto, esclamativo. Che cosa stiamo dicendo? Signore, apri gli occhi del mio cuore affinché io possa vedere che in questa situazione, con i miei figli che mi danno difficoltà, che con questa situazione al lavoro difficile, Signore, che con questo collega, con questo familiare, che io ho problemi, apri gli occhi del mio cuore e fammi vedere che tu regni su questa situazione. È quello che chiami a me, tuo suddito, fare. Venga il tuo regno, venga il tuo regno, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Questo ogni giorno dobbiamo pregare. Amen. Un'ultima cosa, l'ho già detta, però ve la ripeto. Perché? Perché Efesini 5:19 ce lo dice. Parliamocelo. Parliamo. Io domani mattina me lo dimenticherò tutto questo. Sto esagerando, però. Me lo dimenticherò. Ho bisogno che tu mi mandi un messaggio e mi dici: Gianluca, Dio regna, ricordatelo. Se ci incontriamo per strada, nelle nostre difficoltà, l'acqua che sale, Dio regna, Dio regna, Dio regna, ricordatelo e adoralo, lodalo, pregalo, perché Lui regna. Amen. Ci alziamo in piedi. Facciamo una cosa, invito il gruppo Lode a ricantare questo meraviglioso canto che ci ricorda del Salmo 93. Facciamolo insieme. Con tutte le nostre forze, se durante il canto hai bisogno di confessare: Signore, tu regni, Padre, io mi rimetto alla tua maestà, alla tua forza, e io mi arrendo a te, io ti riconosco come re nella mia vita, fallo. Se questa sera hai bisogno di lodarlo, perché è da tempo che non ricordavi chi il tuo glorioso re è, e che Lui è in controllo, fallo questa sera. Lasciate andare nella lode di questo canto, perché adesso conosciamo un po' meglio queste verità, perché ce le siamo parlate. E se hai bisogno di parlarle a qualcun altro, vai da qualcuno e parlale. Adoriamole insieme.